Maria di Sigadrugù, di Sabato, hai pienamente ragione. Vai, manche. Vedi, mi sa che io vado a caricare. A caricare le batterie? Sì. Adesso andiamo a caricare le batterie. Ehi, non so se il tempo non promette bene, non rientro neanche. Ehi, bro. Non ho guardato fuori dalla finestra. Comunque, il tempo non è bello. Il tempo non è bello, se non è litigarello. Cappa. Domani lo prendi il caffè? Mi sa che se ce la fai a scendere alle 7 meno un quarto, sì, perché alle 7 e mezza poi si apre l'ottore già per il mio collega. Sì, alle 7 meno un quarto sono lì. E allora già ce lo prendiamo, caffè al volo.